questo è uno sciopero indetto, programmato dal CGL, CISL e Fiatel sulla questione del bilancio, non diciamo il bilancio ballerino su cui Lemmetti ha messo le mani e non ha voluto approvare. E noi come USB Machi Gobbs diciamo non abbiamo aderito, perché a noi le motivazioni ci sembrano molto strumentali, anche se è ovvio che il bilancio va firmato, però sappiamo benissimo che in questo bilancio hanno messo il problema è che hanno inserito 18 milioni di crediti da parte del Comune di Roma per i cimiteri, insomma. Questa è una somma ballerina che viene messa in bilancio da oltre 10 anni. Nessuno ha mai detto qualcosa, e Lemmetti l'ha bloccato e c'è intenzione di congelarli. Molto probabilmente si arriverà alla firma di un bilancio tecnico, cioè si approva il bilancio e questi 18 milioni rimarranno, diciamo, congelati. Bisogna considerare anche se sempre su questa partita di 18 milioni sembra, anzi quasi sicuro, qualche dirigente AMA che a suo tempo stava appunto nella gestione dei cimiteri si è stato messo, diciamo, agli arresti domiciliari e gli è stato sequestrato tutto il materiale informativo. È ovvio che qui Lemmetti, al di là di tutto, ha messo le mani su qualcosa che riguarda il malaffare di AMA negli anni passati, ed è molto singolare che oggi sia l'azienda sia questi sindacati che hanno programmato lo sciopero, diciamo, abbiano fatto corpo unico. E noi pensiamo che sia strumentale perché non è la prima volta che in AMA diciamo vengono bloccati i conti correnti da parte delle banche, e non si capisce perché adesso, diciamo, la cosa dovrebbe sia motivo di terrorismo nei confronti dei lavoratori. Sicuramente AMA non sta bene, ma non sta bene proprio per una questione di gestione, per problema di classe dirigente che, oltre a non essere in grado, ancora c'ha all'interno tutta una serie di figure che hanno gestito AMA da 30 anni a questa parte. Non c'è stata una grossa partecipazione a questo sciopero, almeno vediamo dai primi numeri, anche perché, diciamo, si è inserito la questione, la condanna della Corte dei Conti a alcuni dirigenti di spicco di queste organizzazioni sindacali, una sentenza, anzi sono 3 sentenze che condannano tutto il presidente, direttore, vicepresidente, consiglio d'amministrazione, collegio dei revisori dell'IVA. L'IVA è l'istituto di previdenza del Comune di Roma, e sono stati condannati per appropriazione indebita e altri reati minori, per cui ci troviamo di fronte a dei sindacati che sono delegittimati, insomma. Che loro stessi poi hanno sempre partecipato da decenni a quella che è stata, diciamo, la concessione in AMA, insomma. Qui non si capisce chi sono i sindacati e chi è la classe dirigente. Ok, quindi una situazione, insomma, come capita spesso purtroppo di sindacati che, insomma, depotenziano completamente anche la forma di lotta dello sciopero. Insomma, oggi sui giornali si legge dello sciopero dell'AMA, si pensa appunto a una vera protesta dei lavoratori, però, insomma, come ci raccontate voi, non è così. Un danno molto grosso alla funzione proprio del sindacato dentro un'azienda, delegittima la funzione del sindacato, una cosa che ci preoccupa molto e che però diciamo è inevitabile, insomma, perché questa gente è improponibile e queste sono le stesse persone, sono le stesse dirigenti sindacali che stanno poi negli enti bilaterali, che stanno al CRAL e che stavano all'IPA, cioè è come se mettessi una volpe dentro un pollaio, quando che si è mangiato i polli gli cambi pollaio, capisci? È un controsenso purtroppo. E sono quei stessi dirigenti che hanno firmato il rinnovo del contratto, insomma, quel rinnovo del contratto che ha permesso ad AMA di fare cassa 7 milioni sull'aumento dell'orario del lavoro con lo stesso salario. Va bene, quindi insomma abbiamo visto di questo sciopero, insomma, dalle notizie che leggevamo, insomma, non era per niente chiaro, infatti volevo cercare di trovare una voce. È uno sciopero strumentale e i lavoratori l'hanno capito. E questa, diciamo, la partecipazione è stata scarsa, insomma. Va bene, allora io non so se ti viene altro da aggiungere, se no insomma era importante cercare di chiarire appunto sui giornali come capita spesso l'informazione è molto molto parziale, insomma è importante anche come radio per noi cercare di fare anche chiarezza su quelle che sono temi che ci stanno a cuore, come appunto la lotta, le lotte dei lavoratori, gli scioperi e le situazioni delle municipalizzate a Roma, che sono situazioni insomma che da anni ci portano a vedere sia le lotte dei lavoratori che poi insomma delle questioni sul comune, su vabbè, insomma, non so se ti viene da aggiungere. Guarda, qualcosa oggi praticamente le organizzazioni sindacali che si rispettino dentro AMA dovrebbero fare sciopero su cose un po' più importanti, tipo appunto l'aumento dei carichi di lavoro e appunto il non riconoscimento ai lavoratori dello sforzo che stanno facendo, perché a Roma siamo sulla soglia dell'emergenza sanitaria, insomma, si vedono i rifiuti che stanno in giro. Oggi praticamente abbiamo lo stesso organico di quando praticamente la raccolta si faceva su una frazione indifferenziata e si andava a buttare dentro una buca. Ecco, oggi ci sta la sfida del porta a porta, è ovvio che qui i dipendenti che bastavano prima oggi non bastano. In AMA ci vorrebbe un piano occupazionale, diciamo, corposo se noi vogliamo veramente affrontare la sfida del porta a porta, cosa su cui non abbiamo scelta oggi come oggi, insomma. È vero, insomma, poi spesso si parla della differenziata, ma la differenziata per funzionare appunto deve essere fatta in una certa maniera e appunto ci serve anche chi la porta avanti, insomma. Come si dice, senza dindi non si danda, questi si vogliono fare belli con i numeri stratosferici sulla differenziata, il porta a porta, tante belle cose, però poi non ci mettono il personale che serve, insomma, ecco. I vincoli del bilancio, compagnia del genere, sono 2000 motivi, no? Però poi questi sono i motivi principali per cui il servizio di igiene ambientale a Roma non funziona. Ecco, non c'è stato un piano di investimenti né sui mezzi, noi abbiamo mezzi, diciamo, che non ci permettono di lavorare. La mattina esce il 60% dei mezzi disponibili perché sono rotti, perché sono vecchi, e questi mezzi poi sono pieni, specialmente i mezzi pesanti, non sanno dove andare a scaricare perché gli impianti sono strapieni, insomma è tutto. Qui si tratta appunto di rilanciare l'AMA, e per rilanciare l'AMA ci vuole un piano di investimenti, un piano occupazionale, però niente di tutto questo purtroppo si muove.